Milano dice grossi rischi, ha chiesto un sacrificio anche ai ceti meno abbienti. Sarebbero state decine di migliaia le vittime di preti pedofili in Olanda. Si è concluso il lavoro della commissione d'inchiesta dell'AIA che ha ascoltato 34.000 persone. Sorteggi di Champions, sfortunato il Napoli si incontrerà con il Chelsea. Buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini, un'altra giornata di acceso dibattito, tanto per usare un eufemismo, alla Camera sulla manovra in vista del voto di fiducia previsto per questa sera attorno alle 19.30. Tra poco faremo il punto sulla situazione politica, prima parliamo delle buste con proiettili intercettate nelle ultime ore. L'indirizzo scritto col pennarello nero, il volantino a computer, nessun simbolo ma una sigla, Movimento Armato Proletario. Rivedete la manovra o ve la faremo pagare, e la minaccia contenuta nelle 10 buste con proiettili intercettate alla Lamezia Terme. Erano diretti al Premier Mario Monti, all'ex presidente Berlusconi, al ministro del welfare Fornero, a politici come Bersani e Casini, ma anche ai direttori di più quotidiani, dal Corriere della Sera a Repubblica, dalla Padania al Libero al Tempo. I proiettili sono di calibro diverse e le buste, senza affrancature né timbro, potrebbero essere state imbucate da qualsiasi località della Calabria. Tutti elementi questi, compresa la sigla, mai usata prima, che portano gli investigatori a ritenere che l'obiettivo di chi le ha mandate fosse soprattutto ottenere una ribalta mediatica. Una ribalta sulla scia della nuova ondata di pacchi esplosivi firmata dalla Federazione Anarchica Informale e poi dopo le lettere con proiettili già recapitate al ministro Fornero e al sindaco di Roma. Il piombo non manca e adesso arriva anche il tritolo degli amici arabi, si legge ancora nel volantino. Espressioni, rimandi e lessico che rafforzano le perplessità investigative. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E come dicevamo all'inizio di questa edizione di GR24, adesso parliamo della manovra, del dibattito alla Camera. Facciamo il punto in diretta con Vincenzo Miglietta, buongiorno. Buongiorno, battute finali qui a Montecitorio per il voto di fiducia chiesto dal governo sul decreto Salva Italia. Il risultato arriverà tra pochi minuti. Il provvedimento nella sua interezza sarà approvato dalla Camera questa sera. Alle 19 interverrà il Presidente del Consiglio Monti. Il testo passerà quindi al Senato per il via libera definitivo atteso prima di Natale. Dichiarazioni di voto intanto questa mattina decisamente agitate, con un duro scontro tra Partito Democratico e Lega. Per il PD è intervenuto il capogruppo Franceschini, che ha rinfacciato al Carroccio di aver avuto per anni, quando era al governo, un atteggiamento sottomesso, salvo ora alzare le barricate. Ma sentiamo Franceschini. Noi abbiamo ascoltato i deputati e le deputate della Lega, sembrano scesi dalla luna, e invece sono stati, siete stati saldamente al governo negli ultimi 3 anni e saldamente incollati alle poltrone romane per 8 degli ultimi 10 anni, e quando eravate seduti su quelle poltrone non sembravate come oggi guerrieri padani, sembravate solo soldatini obbedienti. Per la Lega ha preso la parola la deputata Emanuela Munerato, che ha indossato fisicamente degli abiti da operaio e, rivolgendosi al governo, ha detto: rappresento milioni di lavoratori disgustati da questa manovra. A favore del decreto vota il Popolo della Libertà, con un auspicio fatto dal capogruppo Cicchitto. Ascoltiamo Cicchitto. Siccome il nostro è un atteggiamento critico, ma non è un atteggiamento di sabotaggio, noi riteniamo anche che probabilmente questa ultima operazione restrittiva, ci auguriamo che sia l'ultima, in modo tale che il prossimo provvedimento del governo sia un provvedimento in funzione della crescita. Sì alla manovra anche dal terzo polo, no dall'Italia dei Valori di Pietro Spiega, iniqua e fa pagare ai pensionati anziché far pagare alle lobby finanziarie. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Sulla crisi e sulla manovra è intervenuto questa mattina anche il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. L'Italia deve far fronte a grossi rischi per la propria finanza, per la propria economia, deve riuscire a fare bene la sua parte per l'Europa e per se stessa, e quindi chiede sacrifici agli italiani di tutti i ceti sociali, anche agli italiani dei ceti meno abbienti, perché si facciano le scelte indispensabili al fine di preservare lo sviluppo della nostra economia e della nostra società in un clima di libertà e di maggiore giustizia. Tre giorni di serrata delle edicole il 27, 28, 29 dicembre per protestare contro la liberalizzazione varata con la manovra. Liberalizzazione per un settore già in grave crisi che colpisce oltre 50.000 famiglie. Colpirebbe oltre 50.000 famiglie. Armando Abbiati, presidente del Sindacato Nazionale Autonomo dei Giornalai, spiega le ragioni del no della categoria, intervistato da Adriana Fracchia. Nessuna preclusione o paura che una liberalizzazione aumenti i punti vendita. No, è un periodo dove le edicole erano 38-40 mila, oggi siamo a 32-33 mila, per cui stanno diminuendo, vuoi perché le persone leggono meno, vuoi perché c'è tecnologia, internet, iPod, iPhone, eccetera. Per cui non è una protesta indirizzata alla paura dell'ampliamento rete di vendita. Stabilito questo, quello che invece ci fa riflettere è il problema per cui non siamo commercianti, viviamo su un aggio, su una percentuale, e ovviamente diamo un servizio in cambio di 88 ore al giorno, perché apriamo le 6 di mattina. E questo è il primo concetto, per cui se vogliamo liberalizzare, liberi tutti. Vuol dire che anche noi faremo gli orari, non garantiremo un servizio di domenica, qualcuno guarderà più il cassetto e non apre la mattina alle 6, 5 e mezza di mattina, ma aprirà secondo quello che il mercato richiede. Quello che è più importante è chi decide gli spostamenti e le nuove aperture qualora ci fossero delle necessità. Allora, bene liberalizzare, ma ci deve essere un sistema programmatorio autorizzatorio a monte. Nel 2010 l'aumento annuale delle retribuzioni maggiore in Italia è stato registrato per la presidenza del Consiglio con un più 15,2%, una vera e propria impennata se si considera che il rialzo medio in tutta Italia è stato del 2,1%. È uno dei dati pubblicati questa mattina dall'Istat nell'annuario statistico italiano 2011. Tra i dati relativi al lavoro si scopre che le persone in cerca di lavoro nel 2010 erano oltre 2 milioni e 100 mila e ben 4 disoccupati. Su 10, 834.000 risultavano essere under 30. Si è chiusa l'inchiesta sulla Chiesa e la pedofilia in Olanda. Ecco i risultati. Prima in Irlanda, in Germania, ora anche in Olanda, scoppia lo scandalo pedofilia. Decine di migliaia sono le vittime degli abusi sessuali da parte di circa 800 preti pedofili dal 1945 al 2010. Alcuni abusi sono leggeri, altri gravi e molto gravi. E questa è la conclusione della commissione d'inchiesta istituita all'AIA nel 2010 dalla Conferenza Episcopale Olandese sotto la spinta dell'opinione pubblica. Un organismo presieduto da 6 persone, tra cui l'ex ministro Wim Dittman, un giudice, dei professori universitari e una psicologa. Sulla base di 1795 segnalazioni, la commissione è potuta risalire agli 800 autori degli abusi che hanno lavorato o lavorano per il vescovato, e almeno 105 sono ancora vivi. Il problema degli abusi sessuali era ben noto agli ordini e nelle diocesi della Chiesa Cattolica Olandese, accusa la commissione, ma non furono mai prese le misure appropriate. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ritorniamo in Italia e in modo particolare a Roma. In questi minuti il Consiglio dei Ministri sul tavolo la questione emergenza carceri con un pacchetto di misure per affrontarla. Sentiamo in diretta Andrea Viali, quali sono le novità? Buongiorno. Sì, buongiorno Enrico. Il Consiglio dei Ministri è riunito da pochi minuti prima dell'una, come dicevi, è chiamato ad approvare alcune misure urgenti per affrontare l'emergenza carceri, misure che saranno contenute in un decreto e in un disegno di legge presentati dal Ministro della Giustizia Severino. Per svuotare le carceri si punta in particolare sull'allargamento della detenzione domiciliare, estendendola ad esempio anche a quei detenuti che devono scontare gli ultimi 18 o 24 mesi di pena, questo ancora non è stato stabilito. È una misura che interesserebbe almeno 3.300 detenuti e che porterebbe ad un risparmio di circa 370.000 euro al giorno. Un altro intervento che dovrebbe essere approvato oggi riguarda invece il meccanismo delle cosiddette porte girevoli, cioè del passaggio in carcere di migliaia di persone che poi escono dopo 2 o 3 giorni per andare ai domiciliari o per essere processate per direttissima. Bene, questi passaggi impegnano molto gli uffici dell'amministrazione penitenziaria. La soluzione studiata dal governo sarebbe quella di affidarli direttamente alle forze dell'ordine, che si dovrebbero quindi così occupare sia dell'immatricolazione sia della custodia cautelare per alcuni giorni di questi detenuti. Però è tutto. Grazie Andrea. E da Palazzo Chigi ci spostiamo, torniamo a Montecitorio. Vi abbiamo dato conto questa mattina del dibattito in aula. Ci sono novità, Vincenzo Miglietta in diretta. Sì, è così, si è conclusa anche la seconda chiama, questo è il risultato della fiducia, 495 sì, 88 no, 4 astenuti, il provvedimento nella sua interezza sarà approvato dalla Camera questa sera, alle 19 interverrà il Presidente del Consiglio Monti, il testo passerà quindi al Senato. E da Roma è tutto. Bene, grazie a Vincenzo Miglietta con questo voto che si è appena concluso sulla fiducia alla manovra da parte della Camera. Adesso la cronaca. È stata decapitata la famiglia mafiosa di Campobello di Mazzara in provincia di Trapani, ritenuta una delle ultime roccaforti del numero uno, del ricercato numero uno Matteo Messina Denaro. 11 persone in manette, tra loro anche alcuni insospettabili amministratori e imprenditori del trapanese regno del latitante numero uno di mafia, Matteo Messina Denaro. In cima alla lista degli arrestati, il sindaco di Campobello di Mazzara, Ciro Caravà, ritenuto dagli investigatori espressione politica della mafia dentro il comune. Per non destare sospetti, aveva deciso di far costituire l'amministrazione parte civile nei processi a carico del boss Messina Denaro, ma secondo gli investigatori sarebbe stato vicino al latitante e avrebbe tutelato gli interessi di Cosa Nostra anche agevolando negli appalti le imprese vicine alla mafia, ma non solo, avrebbe anche assicurato sostegno economico alle famiglie dei detenuti. E poi c'è tra gli arrestati Filippo Greco, noto imprenditore di Campobello di Mazzara da tempo, trasferitosi a Gallarate, è ritenuto uno dei principali finanziatori e consigliere economico dell'organizzazione mafiosa. I magistrati della DDA che hanno firmato l'operazione sottolineano che la mafia era riuscita a infiltrarsi in numerose attività economiche del trapanese, ottenendo il monopolio sulla produzione e commercializzazione dell'olio, una delle ricchezze di quelle parti. Il tutto all'ombra di Messina Denaro, latitante ormai dal 1993. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Chiudiamo questa prima parte di GR24 con lo sport, con i sorteggi di Champions League. Ci aggiorna Carlo Genta. Buongiorno, ciao Carlo. Ciao Enrico, buongiorno a tutti. Sorteggi di Champions League che sorridono all'Inter, che peraltro ha vinto il suo girone e pesca il Marsiglia, prima partita in trasferta per i nerazzurri. Meno semplice il compito sarà il compito di Napoli e Milan, che dovranno parlare inglese e dovranno andare a Londra. Il Milan per affrontare l'Arsenal, squadra di giovani che, lo ricordiamo, aveva eliminato l'Udinese nei preliminari di questa Champions League, una squadra molto rinnovata, non all'altezza delle edizioni degli anni precedenti, però comunque un avversario serio. Ben più difficile sarà l'ostacolo del Napoli, che continua a correre meravigliosamente, ma continua a correre in salita in questa Champions League dopo il girone di ferro da cui gli uomini di Mazzari sono usciti. Ora ci sarà il Chelsea, dunque il Chelsea per il Napoli. Quanto agli altri accoppiamenti, molto fortunato il Lione, che aveva passato non senza polemiche la fase preliminare con quell'1-7 molto chiacchierato di Zagabria. Ebbene, il Lione pesca l'avversaria più semplice, cioè l'Apoel Nicosia. Per il Bayern Monaco ci sarà il Basilea, quindi anche in questo caso sorteggio fortunato per i tedeschi, che ospiteranno in casa la finale di Champions League, lo ricordiamo. Per il Barcellona una squadra tedesca, che è il Bayer Leverkusen. Il CSKA di Mosca se la vedrà invece con il Real Madrid di Mourinho. E infine, ultimo sorteggio, c'è Spalletti con lo Zenit San Pietroburgo, che giocherà contro i portoghesi del Benfica. Questi dunque gli accoppiamenti di Champions League. Seconda parte di GR24, queste le notizie principali. Intercettate nuove buste con proiettili indirizzate a Monti, Berlusconi, altri politici e direttori di giornale. Il governo incassa la fiducia della Camera sulla manovra, 495 sì, 88 i no. Napolitano dice grossi rischi, va chiesto un sacrificio anche ai ceti meno abbienti. Sarebbero state decine di migliaia le vittime di preti pedofili in Olanda. Si è concluso il lavoro della commissione d'inchiesta dell'AIA, che ha ascoltato 34.000 persone. Sorteggi di Champions League, sfortunato il Napoli, si incontrerà con il Chelsea. Sta facendo molto discutere la scelta del comune di Casale Monferrato, che a 2 mesi di distanza dalla sentenza del processo Eternit contro il miliardario svizzero proprietario dell'azienda, ha deciso di accettare 18 milioni di euro e revocare la costituzione di parte civile. 1.800 sono stati i morti dal 1974 ad oggi, casi di tumore anche tra la popolazione ancora in crescita. Al microfono di Katia Caramelli, Bruno Pesce, coordinatore direttore dell'associazione Vittime. La città simbolo della lotta internazionale contro l'amianto in questi anni è Casale, è diventata Casale. Quindi a 2 mesi dalla sentenza si ritira il comune più importante in questa battaglia, oltre che in questo processo, in cambio di soldi. Ma ritirarsi da questo processo e dai futuri processi, perché futuri processi? Perché tutti gli anni abbiamo ancora circa 50 mesotelioma, trascuriamo, ci sono ancora alcune morti anche per asbestosi e tumore al polmone d'amianto, ma abbiamo ahimè ancora da raggiungere, dobbiamo ancora raggiungere il cosiddetto picco, quindi ci saranno nuovi processi. E il comune di Casale non potrà più costituirsi parte civile. C'è il dubbio che chiaramente questa mossa poi vada ad influenzare l'esito, no? E lo stesso sindaco, nell'unico incontro che abbiamo avuto pochi giorni fa, ci ha confermato che per i prossimi procedimenti potrebbe contribuire a concedere delle attenuanti all'imputato Stefan Smidaini. Quanti morti in più bisogna avere per far prevalere il dato della salvaguardia della salute e della vita rispetto ai soldi? Ed ora cambiamo argomento, il nostro appuntamento quotidiano sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Sembra incredibile, ma nel paese sommerso gioca un ruolo importante anche l'evasione totale, fatta da contribuenti che non pagano un euro di tasse e risultano del tutto clandestini al fisco. Il fenomeno non è poca cosa. Lo confermano i dati della provincia di Roma, dove nei primi 11 mesi dell'anno sono stati scoperti ben 537 evasori totali, di cui 352 solo a Roma. Operatori economici che non hanno assolto per uno o più periodi d'imposta agli obblighi di dichiarazione delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP, con IVA evasa pari a quasi 470 milioni di euro e un imponibile non dichiarato per circa 2,8 miliardi di euro. In tutto l'equivalente di un buco di bilancio da 3 miliardi di base imponibile sottratti al fisco. Eclatante il caso di un noto pittore di recente deceduto, cittadino americano, che aveva omesso di dichiarare in Italia oltre 81 milioni di euro ottenuti dal commercio di opere d'arte in Italia. Ma l'evasione totale non è solo nel campo della cultura. Anche nella ristorazione, nell'edilizia, nelle società immobiliari, nei call center, nei bar, nelle pizzerie, nell'autotrasporto, nelle pulizie, nel commercio ambulante, sia di generi alimentari che di altri prodotti. Nessuno escluso. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una notizia di poco fa: un bambino di circa 2 anni è morto oggi travolto da un trattore a Cerreto di Spoleto, in località Rocchetta. Siamo in provincia di Perugia. Secondo le prime informazioni, il piccolo è morto mentre veniva trasportato in ospedale. Adesso ci spostiamo a Roma, dove si registra un nuovo omicidio. Un agguato per le strade di Roma, nel quartiere di Tor Vergata, che ha portato all'uccisione di un uomo di 38 anni. Si chiamava Marco Attini, aveva dei precedenti penali ed è stato ucciso da 2 killer in moto, freddato con 4 colpi. Si trovava in macchina con la fidanzata, che ora è ricoverata in ospedale. Si tratta di un fatto di cronaca che ricorda in tutto quello avvenuto il 13 dicembre scorso, quando, sempre a Roma, un albanese di 54 anni con piccoli precedenti fu ferito da colpi d'arma da fuoco nel quartiere Casilino. Anche in questo caso erano stati 2 uomini arrivati a bordo di uno scooter a sparare, entrando nella sala scommesse SNAI dove si trovava la vittima. Solo un mese prima, il 10 novembre, nella centralissima e lussuosa piazza Nicosia, un uomo fu ucciso con colpi d'arma da fuoco, episodi che hanno portato gli inquirenti e il sindaco Alemanno a parlare di una guerra tra bande criminali per il territorio. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nuova allerta meteo della Protezione Civile sulle regioni del nord e del centro. Sono previsti venti forti con mareggiate lungo le coste, abbondanti nevicate sul nord-ovest, in particolare in Val d'Aosta e in Piemonte, nevicate tra l'altro salutate con sollievo dagli albergatori. Altro che sollievo invece in Liguria, che ancora fa i conti con le alluvioni di fine ottobre, inizio novembre. Dopo le alluvioni, ora in Liguria il pericolo arriva dal mare. Dalla scorsa notte la riviera è flagellata dal vento di libeccio che soffia fino a 90 km orari. Onde alte fino a 6-7 metri stanno provocando danni agli stabilimenti balneari. Sospesa la navigazione da diporto, alberi abbattuti lungo il litorale. La Protezione Civile invita tutti a tenersi lontano dalla riva. Il capitano di vascello Luigi Zippo, della Capitaneria di Porto di Genova. Abbiamo in atto un avviso di burrasca da sud-ovest, forza 9, su Mar Ligure. È opportuno, considerato il libeccio che spinge ovviamente in Francia e sulla costa, quello di cercare di non avvicinarsi, insomma, sulle scogliere. A Genova chiusi i parchi di Nervi, in porto rinforzati gli ormeggi. Un traghetto proveniente da Palermo è giunto con oltre 3 ore di ritardo. Temporaneamente sospesi oggi i collegamenti con la Sardegna da parte di Tirrenia. Annullata la partenza per Olbia, slitta domattina quella per Porto Torres. Andrea Ferro, Radio 24, Sole 24 ore, Genova. E a proposito di maltempo, in arrivo in queste ore dalla Francia in Germania l'uragano Joachim. Il centro dell'uragano dovrebbe essere fra le città di Düsseldorf, Hannover e la parte nord di Berlino. Nell'area ci si prepara alle raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 200 km orari, chiudendo anche alcune strade al traffico. Parliamo di scuola, non possono chiedere il trasferimento ad altra provincia per 5 anni. Parliamo degli insegnanti neoassunti, anche quelli entrati in ruolo a settembre. È quanto stabilisce il contratto integrativo firmato ieri dal Ministero dell'Istruzione e dai sindacati. Un vecchio cavallo di battaglia della Lega Nord, questo per impedire agli insegnanti del sud di trasferirsi al nord quell'annetto che basta per ottenere la cattedra e poi tornare al sud. Sentiamo Massimo Di Menna della UIL Scuola, intervistato da Maria Piera Ceci. Sicuramente c'è un'incidenza abbastanza alta in questi spostamenti, ma in generale si tende di favorire una stabilità nell'azione didattica e nell'azione del lavoro nella stessa scuola. Per raggiungere, ripeto, effettivamente questo risultato, si dovrebbe ora definire una pluriennalità di organico ed una permanenza che possa riguardare il personale, anche in termini di perdita di, non perdita di posto. Lei dice va bene bloccare appunto gli spostamenti degli insegnanti. Però almeno coloro che sono dentro, che restano nella scuola. Se la priorità, come giusto, è garantire ai ragazzi e alla scuola una maggiore stabilità, si dovrebbe intervenire da entrambi i lati. Torneremo a parlare di scuola fra poco. All'interno di Scuola in Controluce faremo il punto in particolare sugli istituti tecnici superiori, una bella novità di quest'anno scolastico. Ilik Ramirez Sanchez, detto Carlos, 62 anni, venezuelano, è stato condannato all'ergastolo e a 18 anni di massima sicurezza a Parigi in 4 attentati commessi in Francia nel 1982 e 1983. Morirono 11 persone, 150 i feriti. Il governo giapponese ha annunciato la messa in sicurezza dei reattori della centrale di Fukushima, danneggiata dal sisma e dallo tsunami dell'11 marzo. La crisi nucleare non è ancora finita, detto il premier Noda, ma con l'arresto a freddo è stato fatto un grande passo in avanti, si è aperta una nuova fase. L'ex presidente cubano Fidel Castro, 85 anni, è entrato nel Guinness dei primati come la persona che ha subito il maggior numero di tentativi di omicidio. Sarebbero 638 in 47 anni. E questa era l'ultima notizia di GR24, grazie a Fabio Cantadori che si è occupato della parte tecnica. Edizione curata da Maria Piera Ceci. Al microfono Enrico Pagliarini. GR24 torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.